Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24 ed oggi è l'11 di aprile, seconda puntata di Italia in controluce, il programma di Radio 24 che indaga e perlustra tutte le strade nel nostro paese, quelle della cronaca nera ma anche della cronaca bianca, del costume, dello spettacolo. Oggi entriamo ancora una volta nelle carceri italiane, cerchiamo di capire quali sono i livelli di sicurezza in tutti i nostri penitenziari. Sentiamo insieme il reportage di Maria Luisa Pezzani. Domenica 26 febbraio 2012, ore 10, carcere di Canton Mombello, Brescia. Fatmir Gashi, 24 anni, originario del Kosovo, in cella da 2 anni per una condanna per rapina a fine pena 2016, è in servizio alle cucine. Deve svuotare l'immondizia in cortile, un'operazione per cui il regolamento impone la presenza di un agente. Fatmir, però, quella domenica mattina è da solo. Vicino al muro di cinta c'è un mucchio di mattoni, pochi secondi per decidere, poi si arrampica, scavalca e scappa. Nessun piano per nessuna evasione spettacolare, solo tempismo, agilità e una circostanza. A causa della mancanza di personale, conseguenza di tagli e blocco del turnover, lungo il perimetro del carcere non c'era nessun agente di guardia. Nelle torrette nessun uomo in divisa. La sorveglianza era affidata alle telecamere, solo parzialmente funzionanti per mancanza di manutenzione, e a 12 agenti per tutto il penitenziario. Una struttura con 520 detenuti a fronte di una capienza di 250. Roberto Santini, segretario del SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria. Io mi sono recato nel posto proprio il giorno successivo. Quello che noi abbiamo verificato è che c'era la carenza di personale dovuta sia dal personale stesso, quindi dall'organico della Polizia Penitenziaria, e in quel giorno dei carichi di lavoro particolari, quindi c'erano dei ricoveri in ospedale, quindi dei piantonamenti. Ma nulla è cambiato comunque a distanza di un mese, insomma. La carenza del personale c'è, il carico di lavoro del poliziotto penitenziario è forse ancora più attento, quindi ancora più forte. L'unica cosa che è variata è che l'amministrazione ha sollevato dall'incarico al momento il comandante, quindi questo è sempre il più piccolo e poi ne paga le conseguenze, e il personale lavora con una tensione non indifferente. È previsto per Brescia 250 detenuti con la media di 280 agenti. Abbiamo oggi a Brescia all'incirca 600 detenuti con 180 agenti, quindi un solo agente da solo gestisce 130-140 detenuti, un solo agente, detenuti che comunque sono aperti, detenuti che comunque fanno la socialità, che i colloqui, le telefonate, cioè tutto ciò che spetta al detenuto viene garantito, ma è un solo agente da solo con 130-140 detenuti di varie etnie, con culture differenti, con esigenze differenti, e quindi non è facile una gestione del genere. A questo si aggiunge il malfunzionamento del sistema di sorveglianza. Voi avete potuto verificare anche questo? Sì, noi abbiamo lamentato e denunciato il fatto che nell'istituto di Brescia non funzionava perfettamente la cosiddetta videosorveglianza, o meglio l'antifurto antiscavalcamento, quindi in quel luogo dove comunque c'è stata l'evasione la videosorveglianza non era in funzione, c'erano dei problemi dovuti sicuramente dal fatto che non ci sono soldi, così ha giustificato l'amministrazione, o meglio la direzione di Brescia, e questo fa sì che viene meno la sicurezza all'interno dell'istituto. Cioè noi sostituiamo l'uomo, quindi il poliziotto penitenziario, la sentinella, con la videosorveglianza, poi non abbiamo soldi per la manutenzione e quindi andiamo un po' allo sbando. Brescia è tra i primi posti nella triste classifica dei penitenziari più affollati. Quali sono le altre situazioni critiche? No, guardi, io non penso se oggi possiamo fare più una classifica, guardi, perché ormai è diventato critico tutti gli istituti penitenziari della Repubblica. Noi siamo arrivati alla soglia di 70.000 detenuti e sinceramente ogni istituto che noi ci giriamo c'è il sovraffollamento dei detenuti. Noi abbiamo celle con che previste 7-8 persone, dentro ce ne stanno 15-16, cioè addirittura istituti penitenziari messi letti a castello, che hanno tagliato le gambe del letto per far entrare l'ultimo l'ultimo lettino sopra, quindi cioè veramente siamo arrivati a un punto di non ritorno, non c'è più nemmeno il rispetto della dignità dello stesso detenuto, sinceramente non siamo veramente alla rovina, siamo arrivati alla frutta, come dicono tanti. È vero che il penitenziario è un luogo di pena, ma così come è gestito, così come sono strutturati, è veramente non c'è più la dignità della persona è venuta meno. Parlare di sicurezza nelle carceri significa anche ricordare che per un detenuto che evade, cronaca di ordinaria inefficienza del sistema giustizia, ce ne sono però decine che in carcere perdono la vita. I numeri sono inaccettabili per un paese civile. Nel 2011, secondo i dati raccolti da Antigone, l'Associazione per i diritti dei detenuti, si sono registrati 154 morti in carcere, di cui 53 per suicidio. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono già 39, di cui 13 suicidi. Nelle carceri italiane si suicida un detenuto ogni 1000, fuori dal carcere una persona ogni 20.000. Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. Beh, la sicurezza della loro vita che è messa nelle mani dello Stato, e lo Stato ovviamente, come tutte le persone che è in custodia, deve farle uscire da quella custodia così come sono entrate, sane, nell'ipotesi in cui siano entrate sane. E dall'inizio dell'anno ci sono stati 39 morti all'interno delle carceri italiane, di cui 13 suicidi, ed è un numero impressionante. Circa 40 persone sono già morte nel giro di 60 giorni e più o meno questo accade perché c'è il suicidio per disperazione individuale, oppure perché la situazione processuale non vede luce, ma molto spesso tutte queste 39 morti possono essere accomunate dal fatto che queste persone con il sovraffollamento diventano numeri e non ci si accorge della loro malattia, del loro disagio, della loro disperazione, perché gli operatori sono troppo pochi per potersene accorgere. Sovraffollamento da un punto di vista pratico che cosa significa? Significa per esempio che nel carcere, faccio un esempio di Teramo, un detenuto con gravissimi problemi di schizofrenia viene messo nell'ultimo piano di un letto a castello, cade e rimane paralizzato, perché il sovraffollamento è questo, non avere più spazi che assicurino attenzioni ai casi individuali, per cui sono tutti anonimi di fronte al sovraffollamento, non si riesce più a stare in piedi in cella, non ci sono più spazi per svolgere attività in comune, sono tutti occupati da letti e a volte neanche dai letti, bensì dai materassi o dalle coperte per terra, come abbiamo potuto vedere nelle grandi carceri metropolitane. Personalmente io le ho visti poco tempo fa a Regina Coeli. Quali sono le carceri dove la situazione è più critica? Le ho citate un po' così sommariamente prima, sono le grandi carceri metropolitane e quindi si va da Regina Coeli a Roma, a Bari, alla Dozza di Bologna, a Catania, a Lucciardone di Palermo, a San Vittore di Milano, Parma, diciamo sono tutti quei luoghi dove appunto arrivano le flotte di arrestati e non c'è più spazio vitale. Poi dopodiché ci sono anche luoghi piccoli e gestiti con eccessiva durezza, ingiustificata eccessiva durezza e assenza di un'offerta rieducativa. Per esempio, diciamo, noi abbiamo nelle nostre osservazioni fatto il caso emblematico di Fermo. Assistenza medica negata, diritti all'infanzia violati, discriminazioni sessuali e religiose. Quello che sui giornali diventa una breve di cronaca nasconde decine di tragedie quotidiane. In giro per l'Italia, andando a vedere con i propri occhi i reparti, soprattutto quelli delle grandi città dove i detenuti sono ammassati, si vedono persone non curate, abbandonate lì, veramente uno stato di abbandono terapeutico. Noi ci siamo resi conto in una recente visita che una persona attendeva da non so quanti mesi che gli si togliesse il ferro da una gamba, che si faceva tantissimo male, stava andando in cancrena e così via. Questo è un episodio, ma ce ne sono purtroppo a ripetizione, tutto legato al fatto che l'offerta sanitaria, l'offerta pubblica, l'offerta di trattamento umano è ormai ridotta all'osso. Bisognerebbe mettersi tutti intorno a un tavolino senza pregiudizi e arrivare ad una soluzione in cui si restituisca dignità ai detenuti e agli operatori. Era la seconda puntata di Italia in Controluce. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24. Vi ricordo, questa e tutte le puntate di Italia in Controluce, come le trasmissioni di Radio 24, le potete scaricare in podcast. Siamo anche su Facebook, su Twitter, nel nostro blog. A domani dunque.